24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano ancora la crisi. L'Europa respinge al mittente i rumors giornalistici sulla ricapitalizzazione delle banche continentali. Bruxelles non commenta per ora la manovra italiana rivista e corretta dal governo e già pesantemente criticata dalle opposizioni, mentre i mercati hanno dato segnali negativi con nuovi rialzi nei differenziali BTP Bund. Vi racconteremo le ultime prese di posizione europee su Libia e Siria con la denuncia della repressione a Damasco. E vi porteremo in Germania. A Bonn è nato il ticket stradale per le prostitute. Sulle banche europee non è il caso di fare allarmismi, lo ha dichiarato Amadeu Altafaj, portavoce del commissario agli affari economici Olli Rehn, dopo le preoccupazioni riportate da alcuni giornali. La situazione è chiara, ha detto Altafaj, si sta facendo il necessario per affrontare le difficoltà esistenti, non ci sono e non ci saranno sorprese. Secondo l'edizione tedesca del Financial Times, André Henry, direttore dell'EBA, l'autorità europea per la vigilanza sugli istituti di credito, avrebbe inviato una lettera ai ministri delle finanze dei 27, sottolineando l'opportunità che al Fondo Salva Stati venga data anche la possibilità di intervenire direttamente nelle operazioni di ricapitalizzazione delle banche in difficoltà. Intanto il presidente della Commissione europea Giuseppe Barroso e il premier polacco Donald Tusk, presidente di turno dell'Unione, hanno espresso un cauto ottimismo sull'approvazione del pacchetto di 6 misure per la riforma del patto di stabilità e una nuova governance economica che deve ancora ricevere il via libera dall'Europarlamento e fare i conti con l'opposizione della Gran Bretagna. Sono fiducioso nella capacità della presidenza polacca di avere un accordo finale, ha detto Barroso. Continuiamo a prevedere che la regione scamperà una vera ricaduta in recessione, questa è la stima di Standard & Poor's sulle prospettive economiche dell'Eurozona. L'agenzia ha comunque rivisto al ribasso l'outlook sulla crescita europea. Il PIL 2011 è ora atteso in aumento dell'1,7% contro l'1,9% stimato in precedenza e quello del 2012 dell'1,5% contro l'1,8% precedente. Da Bruxelles a Roma i contenuti della manovra italiana sono stati appena modificati ed è quindi ancora presto per poter esprimere una valutazione. Questa è la posizione espressa dalla Commissione europea. I nuovi elementi introdotti, secondo Bruxelles, dovranno essere valutati dai servizi della Commissione una volta che saranno disponibili le misure concrete stabilite. E ascoltiamo ora le ultime novità proprio sulla manovra italiana. Rilievi critici sono giunti ieri da Banca Italia, Corte dei Conti e Istat. Strada obbligata quella del risanamento dei conti pubblici, ma è necessario puntare anche alla crescita. A dirle la Banca d'Italia, che ricorda l'entità della manovra è rigida, ma sarà necessario monitorare le misure. Così il vice direttore di Via Nazionale, Ignazio Visco. L'azione di risanamento dei conti pubblici, che è volta al pareggio del bilancio nel 2013, tuttavia rallenterà la crescita e non ha alternative. Ogni altro scenario condurrebbe a risultati più drammatici per il nostro paese. Visco parla di rischio di stagnazione per la nostra economia, esprime quindi dubbi sulla Robin Tax, ma cosa fare allora all'interno del vincolo dei saldi invariati? Per la Banca d'Italia andrebbe ridotto il peso degli aumenti delle entrate, accrescendo il ruolo delle misure strutturali. Questo livello sarebbe ancora maggiore se gli enti decentrati compensassero, anche solo in parte, la riduzione dei trasferimenti statali con l'aumento dell'imposizione a livello locale. Occhi puntati sulla pressione fiscale anche da parte della Corte dei Conti. Presidente Giampaolino. Il ricorso prevalente alla leva fiscale e in particolare le modalità di intervento prescelte determinano la compressione del reddito disponibile. Dal presidente dell'Istat Giovannini infine un avvertimento. Attenzione, le ultime novità previdenziali potrebbero spingere molti ad anticipare l'uscita dal mondo del lavoro. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Vola intanto di nuovo a 300 punti lo spread tra il BTP decennale e il Bund tedesco. Il rendimento sul decennale italiano è al 5,14%. La questione delle garanzie collaterali chieste dalla Finlandia per far partire il secondo pacchetto di aiuti alla Grecia sarà risolta presto, così il presidente della Commissione Barroso. E la Commissione europea ha approvato la scelta della Spagna di inserire nella Costituzione la regola d'oro, vale a dire il principio generale del pareggio di bilancio. Bruxelles ha lanciato un appello agli altri paesi del vecchio continente affinché seguano l'esempio di Madrid. L'ESI, l'indicatore della Commissione che misura il sentimento economico in Europa, ha registrato in agosto un calo di 5 punti a quota 97,3 nella zona dell'euro e di 4,7 punti a 98,3 in quella dell'Unione a 27. Chiusura in territorio contrastato per le borse continentali ieri dopo il forte rialzo della vigilia, borse penalizzate dal crollo della fiducia dei consumatori americani. Francoforte e Milano hanno terminato la seduta in negativo, Parigi leggermente sopra la parità mentre è balzata Londra. Sentiamo com'è andata a Piazza Affari. Le borse europee hanno terminato la seduta in modo contrastato dopo il forte rialzo della vigilia, penalizzate dal crollo della fiducia dei consumatori americani ad agosto. Francoforte e Milano hanno registrato performance negative con il FTSE MIB a meno 0,23%, mentre balzata Londra più 2,7% che lunedì era rimasta chiusa per festività. A Piazza Affari hanno perso terreno i titoli delle banche che hanno risentito dell'aumento della volatilità dei titoli di Stato nonostante l'esito positivo dell'asta. Le più colpite dalle vendite sono state MPS e UbiBanca in calo del 2,6% circa dopo risultati semestrali che non hanno convinto gli analisti. La migliore del listino è stata Fonsai più 4,3% che ha più che dimezzato le perdite nel semestre e ha confermato i target per il 2011 in assenza di nuove turbolenze finanziarie. Male i titoli legati al comparto energetico dopo che il governo ha confermato nella manovra bis l'inserimento della Robin Hood Tax. Terna ha ceduto il 2,4%, Snami il 2%, Enel l'1,7%. Livia Zancaner da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Italia ha il primato negativo in Europa per la bolletta elettrica più costosa a carico delle imprese. I nostri imprenditori pagano l'energia il 31,7% in più rispetto alla media continentale. Tradotto in denaro si tratta di un maggior costo di 7.939 milioni di euro l'anno, equivalenti a circa mezzo punto del valore aggiunto. Per ciascuna azienda italiana ciò si traduce in un esborso di 1.776 euro in più ogni anno rispetto ai competitor europei. Voltiamo ora pagina. Il premier polacco Donald Tusk, presidente di turno dell'Unione, ha chiesto che la conferenza degli amici della Libia, che si riunirà domani a Parigi, dichiari la fine della guerra. E intanto, secondo la NATO, la missione militare in Libia è ancora necessaria e le operazioni a protezione della popolazione civile continueranno finché occorrerà, ma non un giorno di più. Così la portavoce Oana Lunghescu. L'embargo europeo contro il petrolio siriano si sta preparando, la Commissione auspica che le nuove sanzioni possano essere concluse entro la fine della settimana in occasione del meeting informale dei ministri degli esteri europei in programma venerdì e sabato a Sopot. Intanto il capo della diplomazia comunitaria Catherine Ashton ha denunciato la repressione delle manifestazioni democratiche in Siria. Sentiamo. Una condanna senza equivoci della repressione brutale che il regime siriano ha scatenato contro le manifestazioni pacifiche in corso da mesi. Il capo della diplomazia europea, Catherine Ashton, ha scelto il Medio Oriente più prossimo a Damasco per rinnovare la condanna di un paese che sembra ormai intrappolato nella via della repressione unilaterale. Israele e Giordania sono state le tappe di una missione medio orientale che ha visto la Ashton rinnovare l'impegno economico e politico dell'Europa a sostegno dei processi di trasformazione pacifica in corso nell'area. Il bilancio di 5 mesi di proteste e repressione da parte del governo di Assad è stato intanto aggiornato: 3.100 vittime dall'Organizzazione Nazionale per i Diritti Umani, diretta da Ammar Kurabi, che da 10 anni lavora come ricercatore nell'ambito umanitario, ma che da 15 giorni è stato costretto a lasciare il suo paese. Il regime siriano da parte sua non fornisce una lista dei civili uccisi, ma afferma che oltre 500 tra soldati e poliziotti sono stati uccisi da parte di bande armate. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A 16 anni dalla fine dei conflitti armati nella ex Jugoslavia, 13.714 persone risultano ancora disperse. Lo ha affermato il capo dell'ufficio regionale del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Dragana Kožić. E ora andiamo in Germania. Ticket stradale per le prostitute. Ecco come il comune di Bonn, per non discriminare le colleghe che lavorano in casa, cerca intanto di rimpinguare le casse della città. Il nome distributore fiscale inganna. In realtà è una specie di parchimetro con cui le prostitute di Bonn, avete capito bene, che lavorano per strada, d'ora in avanti pagheranno le tasse. 6 euro a notte, dalle 20:15 alle 6 del mattino. Tutto scritto, tutto in regola. Tassare chi sta sul marciapiede. Gli italiani, i professionisti dell'evasione, si stupiscono. A Bonn invece si stupiscono del contrario. È una questione di equità fiscale, dicono gli amministratori. Perché una prostituta che lavora in casa deve presentare ogni mese la dichiarazione dei redditi, mentre quella che esercita fuori no? Già, perché? Ed ecco allora il parchimetro del sesso, un parcheggio, una specie di box per l'intimità, e il gioco è fatto. Basta solo che prima di ricevere i clienti la ragazza acquisti il ticket dal distributore. E chi evade? Prima una multa da 100 euro, poi l'allontanamento dal marciapiede. Domanda: è immorale una tassa sul sesso da strada o è più immorale non pagare le tasse? Mentre cresce il dibattito, al comune di Bonn si spera che almeno crescano le entrate. Le casse, infatti, piangono. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Negli ultimi 5 anni il numero di europei che fa shopping su internet è raddoppiato, passando dal 20 al 40%, una tendenza che non riguarda però l'Italia, dove in media solo il 15% dei cittadini fa acquisti sul web. È quanto emerge da uno studio presentato a Bruxelles dalla Commissione per il Mercato Interno e i Consumatori dell'Europarlamento. Era questa l'ultima notizia di 24 ore in Europa, è tutto dunque per il nostro appuntamento. Un grazie a Fabio Cantadori per l'assistenza in regia, una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.